140. Uova affogate. Scocciatele quando l'acqua bolle e fatele cadere da poca altezza. Quando la chiara è ben rappresa e il torlo non è più tremolante, levatele con la mestola forata e conditele con sale, pepe, cacio e burro. Se ci volete una salsa, può servire quella di pomodoro, la salsa verde del numero 119, quella del numero 127, oppure una appositamente fatta che comporrete disfacendo un'acciuga nel burro caldo e aggiungendovi capperi spremuti dall'aceto e alquanto tritati. Ma questa salsa non è per tutti gli stomachi. Ho veduto servirle anche sopra uno strato alto un dito di purè di patate, oppure sopra spinaci rifatte al burro.